L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, un rispetto che si studia anche sui banchi di scuola e che può diventare opportunità di lavoro anche in questi tempi di crisi. Ne parliamo a partire da uno studio condotto dall'Università di Pavia sul mercato del lavoro locale per conto dell'Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione, APOLF. I nostri ospiti, la professoressa Antonella Zucchella, che insegna presso la Facoltà di Economia dell'Università, come dicevamo, di Pavia. Benvenuta. Buongiorno. Il ricercatore Stefano De Nicolai, sempre presso l'Università di Pavia. Buongiorno a tutti. E il presidente del Consiglio di Amministrazione di APOLF, Filippo Cavazza. Benvenuto anche a lei. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Cavazza, inizio proprio da lei. Di che cosa si occupa APOLF? Questo per far capire ai nostri ascoltatori anche il perché avete poi commissionato questa ricerca. APOLF è un ente pubblico costituito dal Comune di Pavia e dalla provincia di Pavia, che ha un ventaglio molto ampio di compiti e di scopi, tutto però nell'alveo del mondo del lavoro. Del lavoro e quindi della formazione. E quindi ovviamente per voi era interessante capire quali opportunità di lavoro ci sono sul territorio pavese, che poi lo ricordiamo, lo diciamo ai nostri ascoltatori, è un territorio sì vicino a una grande città come Milano, ma comunque simile a tante altre province italiane. Non è vero, no, dottoressa Zucchella? Esatto. Nonostante la vicinanza a Milano, che è il cuore economico produttivo nazionale, Pavia non è diversa da altre province, soprattutto del nord, e quindi risente certamente di problemi, in parte anche locali, di sviluppo economico, di occupazione, soprattutto di occupazione giovanile. E uno degli obiettivi è proprio capire se nel territorio è possibile creare maggiori opportunità di occupazione giovanile senza che necessariamente i giovani siano costretti ad andare a Milano. Stefano De Nicolai, lei si è occupato, diciamo, della ricerca sul campo, no? Esatto. Come ha proceduto? Fondamentalmente si è cercato di fare un lavoro su ampia scala che cercasse di considerare diverse tipologie di fonti di dati, che significa partire da i dati ufficiali forniti da infocamere piuttosto che da altre banche dati autorevoli, per poi integrare queste informazioni, diciamo così, pubbliche, che hanno tanti lati positivi ma ahimè qualche elemento, qualche lacuna, soprattutto quando si vanno a indagare elementi più di dettaglio, facendo tutto un lavoro piuttosto ampio sul territorio di interviste, focus group ed altre metodologie fortemente interattive di incontro con imprenditori ed altri opinion leaders o esperti in materia di questo tipo, per raccogliere informazioni qualitative e aggiornate. Abbiamo pensato che questo metodo, orientato a raccogliere sì il presente ma a capire anche quali potrebbero essere i trend futuri, fosse un pochettino un po' più affidabile rispetto a metodologie come questionari e quant'altro, in quanto avendo la possibilità di confrontarsi face to face direttamente, come dicevo prima, con gli imprenditori, dava la possibilità di raccogliere elementi qualitativi di fino. Abbiamo incontrato oltre 100 persone e sono emerse alcune cose interessanti. Professoressa Zucchella, ce ne dica qualcuna di questi dati interessanti, ovviamente quelli che riguardano più strettamente il nostro ambito della sostenibilità qui all'altro pianeta. Sì, da questo punto di vista una delle indicazioni interessanti emerse dalla ricerca è proprio il potenziale che è ancora inespresso nell'area dei green jobs, come noi li abbiamo chiamati, quindi in generale i lavori verdi, che sono di natura varia inevitabilmente, e vanno dalla semplice manutenzione del verde fino invece a tutti i lavori legati alla sostenibilità, alle energie rinnovabili e così via. Questo è un settore dove diverse realtà del mondo e del mercato del lavoro ci segnalano prospettive di crescita con luci ed ombre, ecco perché parlo di un potenziale ancora inespresso. Quali sarebbero le ombre? Ma le ombre sono legate al fatto che la percezione diffusa, condivisa, è che questo sia un settore in crescita, anche a prescindere dalla presenza di incentivi pubblici a questo tipo di settori. Dall'altra parte, le realtà aziendali presenti nelle varie province, e nel caso particolare nella nostra, sono ancora realtà in consolidamento, quindi ritengono di poter crescere, di poter sviluppare la propria attività negli anni a venire, tuttavia non nascondono le perplessità legate al momento economico difficile, legate anche al futuro, soprattutto delle energie rinnovabili, che è un futuro a tutt'oggi che anche per gli opinion leaders è difficile da intravedere nei suoi dettagli. Quindi De Nicolai, quando lei faceva queste interviste, ha raccolto queste indicazioni da parte degli imprenditori locali, le hanno forse segnalato anche delle difficoltà a reperire personale già formato sul territorio? Senza dubbio. Le chiedo se posso fare una piccola aggiunta. Prego. Al tema degli incentivi, che credo che sia molto importante. A rinforzo di quanto già detto dalla professoressa Zucchella, ovviamente il tema degli incentivi in un campo come questo è molto, molto caldo, e alcuni di questi ambiti difficilmente possono svilupparsi in senso stretto senza un rinforzo di questi incentivi stessi. Però c'è da dire una cosa molto importante: paradossalmente gli incentivi creano quasi anche qualche problema, mi spiego. Le alcune aziende forti, consolidate, poche ma alcune ci sono, notano come una forte politica di incentivi, soprattutto negli anni passati, abbia creato molte imprese, mini imprese, che in qualche modo si sono improvvisate in lavori di questo tipo, e questo non fa particolarmente bene al settore. Il vero problema legato agli incentivi, più esserci o non esserci, è legato all'incertezza. Come spesso capita in questo paese, un imprenditore riesce a lavorare, sa lavorare bene, e un settore riesce a consolidarsi se c'è certezza in quello che avverrà. Spesso ci sono dei dubbi riguardo al fatto ci saranno o non ci saranno, in che direzione, come saranno, e forse tra le ombre più negative, al di là dell'esserci o non esserci, avere un quadro preciso, nel bene e nel male. Certo, questo è stato ammesso anche proprio dal governo stesso, no? Questa incertezza che ha determinato poi altre incertezze sul mercato del lavoro, su proprio anche la richiesta, la possibilità di sviluppo delle aziende italiane in questo settore. Richiamerei in causa Filippo Cavazza dell'agenzia, lo ricordo, Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione. Chi si rivolge all'agenzia ha in mente anche le professioni verdi per ora, o siete più voi magari a spingere verso questo settore? Fino adesso le persone, sia i 14-18 anni, sia delle generazioni successive che si sono rivolte a noi, non hanno ancora manifestato un grandissimo interesse per i green jobs o per l'economia sostenibile. È però vero che questo tipo di settore imprenditoriale mostra grandi prospettive di crescita. È però vero che moltissimi dei nostri corsi sono legati all'ambito della ristorazione, del turismo e dell'enogastronomia, e in vista di un appuntamento come Expo 2015 questi temi sono di straordinaria attualità, perché è un Expo che sarà dedicato a nutrire il pianeta, è un Expo che ha anche un risvolto particolare sull'ambito enogastronomico, che faccia sia appassionare e interessare le persone che apprendono, e faccia anche in modo che queste persone possano poi trasmettere ai clienti e ai fruitori un modo di mangiare e di bere sostenibile, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico. Certo, questo è un'altra possibilità, e anche un altro legame importante, vedo, viene segnalato nella ricerca, nel momento in cui si pensa a viticoltura e agricoltura, che anche questi non sono, cioè sono i green jobs più evidenti, no? più semplici a cui uno può pensare, ma che hanno legami anche con tutto quel comparto turismo, ristorazione, che vengono segnalate appunto nella ricerca. Professoressa Zucchella, anche questo è una possibilità, diciamo, quella verso l'agricoltura, tornare alla terra. Sono d'accordo, la provincia di Pavia poi in particolare ha storicamente avuto una vocazione agricola maggiore rispetto anche ad altre province lombarde, a prescindere da questa specificità territoriale. C'è in atto un processo di rivalorizzazione delle professioni legate, diciamo, alla terra, che richiede nuove competenze, perché si stanno integrando filiere diverse. Ad esempio, nella campagna pavese stanno nascendo degli impianti di generazione di energia con utilizzo di scarti di prodotti agricoli. Questo richiede nuove competenze che non sono immediatamente disponibili. E questo mi pare sia un buon esempio. Dall'altra parte c'è la filiera agriturismo che è stata evocata e valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi agroindustria, agroenergia, agriturismo sono tutti modi per dare un nuovo valore alle professioni legate alla terra e su questo bisognerà certamente in futuro immaginare un disegno formativo che vada in questa direzione. Quando si pensa a un disegno formativo si pensa anche ai formatori. Cavazza, voi come pensate di risolvere? Perché qui ci sono anche delle figure professionali che mancano forse all'appello, dei docenti che mancano. Sì, c'è una mancanza di docenti e c'è una necessità generale di rivalutare la formazione professionale. Per troppo tempo, per troppi anni è stata considerata una formazione di serie B, da pochi anni la politica e le istituzioni la stanno cominciando a rivalutare. Proprio di recente il ministro Sacconi, alla presentazione del rapporto della Fondazione Sussidiarietà, ha detto che tutte le forme di apprendimento, anche quelle di carattere pratico, sono da considerare di serie A, perché non c'è più un apprendimento di serie A di tipo intellettuale e uno di serie B di tipo pratico. Quindi questa riconsiderazione, questa valorizzazione della formazione professionale porterà, o dovrebbe portare anche a una rivalorizzazione dei formatori. Su questo però credo che sia importante dire una cosa: c'è bisogno di formatori certamente preparati tecnicamente nel loro ambito, ma c'è bisogno, e su questo il mio ente cerca di essere molto attento, di formatori attenti alla natura umana delle persone con cui si imbattono. Non dimentichiamoci che spesso nei centri di formazione professionale finiscono ragazzi con storie molto difficili alle spalle. Aggiungiamo poi una cosa, e su questo la ricerca di Apolf lo accenna, ed è uno spunto che non vale solo per la provincia di Pavia, ma vale un po' per tutta Italia. In tutti i corsi i formatori devono cercare di instillare il tema dell'autoimprenditorialità. È sempre più sentito questo aspetto, non basta formare dei buoni operai, dei buoni impiegati, bisogna cominciare a far nascere nelle persone, e questo può essere un effetto positivo dell'attuale crisi economica, il desiderio di essere loro stessi protagonisti attraverso la creazione di un'impresa, quindi non più la cultura della formazione per un lavoro subordinato, ma la cultura della formazione per un lavoro imprenditoriale in cui giocarsi in prima persona. E questa è una cosa che emerge dal rapporto ed è una cosa che molte persone nel frequentare alcuni corsi, sia quelli legati ai green jobs, sia quelli di eccellenza nell'ambito turistico e enogastronomico, richiedono, vogliono essi stessi diventare imprenditori nel loro piccolo, aprendo un'impresa agroturistica o un'impresa che tratta di energie rinnovabili. Professoressa Zucchella, proprio visto il tema economico, lei come vede questa spinta che Apolf sta dando, vuole dare comunque a coloro che frequentano la scuola? Essere imprenditori di se stessi è una buona idea ultimamente in questi anni? Ma io credo proprio di sì, quindi noi abbiamo storicamente insegnato ai ragazzi il loro futuro doveva essere quello del dipendente, dirigente in qualche azienda. Adesso, anche su sollecitazione dell'Unione Europea, veniamo sempre più invitati a farli riflettere sul tema della creazione di impresa, che inevitabilmente poi richiama anche il tema della creazione sostenibile di impresa e quindi attenzione ai temi della sostenibilità e della responsabilità. Quindi questo è un dibattito che io ritengo attualissimo. Vorrei ricordare che alcuni anni fa l'Unione Europea fece un'indagine presso tutte le università dei paesi dell'Unione per vedere a che livello era la cultura dell'imprenditorialità nei percorsi di studio, e l'Italia si classificò ultima con la Grecia perché non c'erano corsi specifici di questo genere o progetti formativi di questa natura. Visto che ci avviamo alla conclusione, richiamo Stefano De Nicolai e le chiedo, quali, volendo proprio dare delle etichette, cos'è al momento più richiesto dal mercato? Che figure professionali? Sono molto richieste capacità di, chiamiamole così, audit energetico, per riuscire a capire cosa un determinato contesto necessita, perché insomma ogni area, ogni edificio o quant'altro necessita esigenze diverse e non è così semplice sapersi indirizzare verso termico, fotovoltaico, geotermico e quant'altro. Sono sempre più ricercate la capacità di comprensione dei fenomeni fisici di base, alla base di queste tecnologie emergenti, e come ultima direi, non in ordine di importanza, per l'appunto forse lo accennavo prima, davvero serve chi sappia fare una valutazione economico-sostenibile degli interventi che sia credibile e solida. L'altro pianeta. E dopo la viabilità è il consueto momento della intervista di Cristina Carpinelli, allora scopriamo insieme chi ha portato ai nostri microfoni questa settimana. Dario Vergassola, ospite dell'Altro Pianeta, un programma che si occupa di ambiente. La prima domanda è questa: se le dico terra, cosa le viene in mente? Beh, una bella cosa che potrebbe diventare una brutta cosa. Se fosse obbligato a scegliere, quale animale vorrebbe salvare dall'estinzione? Questa è una bella domanda. Diciamo gli umani? Ma se potessi no, chiaramente, però anche perché dentro c'è mia suocera, quindi preferirei... in questo momento posso fare cani e gatti? Sì, forse una mucca, così, cioè, torniamo un po' indietro col tempo, visto che ci dà da mangiare e da bere. Il latte forse avrebbe senso, sai che non lo so. È difficile. E invece se potesse scegliere quale animale essere per un giorno, cosa sceglierebbe? Ah, per un giorno, una rondine. Guarda, sono stato in Scozia, ho visto dei voli di rondine meravigliosi sul mare e sono rimasto affascinato, non pensavo andassero così veloci, così rapidi. Lei mangia carne? Quando ero a casa con mia mamma, che se non mangiavi la carne le mamme stavano male. Adesso se Dio vuole si è capito che non serve mangiarne così tanto. Mangia bio? Mangio bio quando posso, sì, abbastanza. Ho una moglie attenta. Senta, lei crede che l'ambientalismo sia un movimento di fatto già morto o che ancora deve nascere? Io credo che l'ambientalismo sia un bel movimento che deve ancora capire l'importanza di essere trasversale dal punto di vista strettamente politico, eccetera. E purtroppo però ha fondamentalmente a capo un errore che è esattamente sempre quello umano, che quasi tutti, così almeno non ci metto tutti, quasi tutti quelli che poi conosco come diciamo movimenti dell'ambiente, ambientalisti eccetera, non so perché, ma finché sono in una prima fase così di fatta istinto di volontari eccetera, sembra tutta una gran bella cosa. Nel momento che diventano un po' più istituzionali e diventano più importanti, secondo me cominciano a ricadere nella parte negli errori umani, cioè sopportano di più delle cose che prima detestavano. Non so come dire, ma diciamo che più si istituzionalizza una cosa e peggio diventa. Lei cosa fa per l'ambiente? Io faccio niente. Però faccio poco e niente perché sono di quelli che sono contro la caccia, ma se mi chiamano a mangiare una sera il cinghiale, gli amici cacciatori, ci vado e lo mangio. Faccio parte di quella categoria di persone lì, insomma, che forse sono i peggiori. Però se non altro sono abbastanza, come si dice, sincero, nel senso che sono contrario a una caccia stupida, brutale, fatta. Ultimamente so che hanno... Cioè, ho visto persone che andavano a caccia, una volta vedevo i cacciatori che andavano a caccia, che erano quelli che abitavano su tipo 5 terre per capire, e avevano una strana logica, con la doppietta, con due colpi in canna e basta, che a volte tornavano quasi sempre più per fare una passeggiata, per andare a fare un giro. E adesso di quelli che ci vedo ultimamente, dei più giovani, li trovo un po' più fanatici, un po' più pistoleri, quindi diciamo che anche lì ci sarebbe da fare una selezione a monte. Del suo passaggio su questa terra, cosa vorrebbe lasciare in eredità agli uomini del futuro? Beh, una domanda meravigliosa, la cura contro il cancro, il mantello dell'invisibilità e il raggio laser, ma quello per sconfiggere gli alieni. Sarebbe un po' troppo, però mi basterebbe non avere influito molto sul peggioramento del pianeta, insomma. Beh, questa è un'ottima risposta. Quale parte invece del nostro pianeta salverebbe anche a costo della sua stessa vita? Ma quasi tutto a un certo punto, cioè ogni... Però per esempio io sono in questo momento sono in Scozia, e ho fatto un giro meraviglioso ho visto le foche ieri, per dirti una stupidaggine, e in un posto meraviglioso non pensavo fosse così bello, laghi, fiumi, monti, e poi ho visto una cosa terribile, che è una sorta di morte di foreste che c'è stata quest'anno, che è terribile, un grigio orribile che sembra veramente una specie di malattia, e dicono che sia o un fungo o una primavera talmente rigida che ha fatto bruciare le piante. Ecco, però se uno fa un giro in un posto così e vede da una parte una delle più belle terre, di quelle anche che ti immagini, il fiume, il laghetto, la pecorella, i prati verdi e questo panorama meraviglioso, dall'altra parte c'è una foresta completamente morta, distrutta e grigia, che però ti dà abbastanza l'idea di quello che succede. Diciamo che già non c'entra niente, però l'idea del referendum sul nucleare, che sia andato bene, sono già contento. Senta, Vergassola, l'intervista è finita, vorrebbe aggiungere qualcosa a chi la sta ascoltando? Si è divertito? No, però cominciavo a prenderci gusto. Io purtroppo sono molto pigro e mia moglie invece è l'opposto, e mi trovo macchinate di spazzatura differenziata ogni volta che mi tocca andare a cercare i cassonetti. E però la cosa buona è che una volta, se fingevo di buttare la carta nella plastica o qualcos'altro, dormivo tranquillo. Adesso comincio a avere dei sensi di colpa e comincio a capire che non lo devo più fare. Ecco, può darsi che se faccio parte come campione della popolazione mediocre, e sicuramente ne faccio parte, però forse qualcosa sta succedendo. Grazie a Cristina Carpinelli per l'intervista. Ora è il momento dell'altra nostra rubrica, ovvero articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono va a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti. Abbiamo in collegamento con noi la Presidente d'Italia Nostra, Alessandra Mottola Molfino. Buongiorno Presidente. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Ecco, siamo alla ripresa e sui tavoli di tutti noi ritornano i vecchi problemi, e per Italia Nostra il problema è proprio la salvaguardia del nostro bel paese. Lei, Presidente, gira per l'Italia e ha ben presente tantissimi casi, e so che oggi ci vuole accompagnare in un posto meraviglioso, in Sicilia. In un posto dove ci magico, porta? Un posto assolutamente magico, uno dei il più bello forse tra i siti archeologici esistenti, il grande parco archeologico di Selinunte, vicino a Castelvetrano. Ecco, quindi siamo in Sicilia. Bellissimo. E ci descriva un po' questo posto, per chi per caso non l'avesse visto. Intanto sono quasi 300 ettari di parco archeologico, con una grande cittadella, un'acropoli dove ancora esistono dei templi dorici che risalgono al quinto secolo avanti Cristo, quindi una rarità, perché sono tutti templi greci di grandissima bellezza, e questa era una capitale, una città ricchissima dell'antichità, che però fu poi assaltata e distrutta nel 409 avanti Cristo dai cartaginesi al comando del terribile Annibale. Quindi un argomento molto attuale, questa guerra tra le due sponde del Mediterraneo. E noi vediamo ancora gli effetti sostanzialmente di quell'assalto, sì, perché se non sbaglio distrutti. I templi sono abbattuti, ecco, è un luogo in rovina, templi molto affascinante. Ecco. Sì, ma sono rovine grandiose, perché ci sono anche le cave da cui venivano tratti, scavati i rocchi delle colonne, ci sono questi rocchi delle colonne dispersi intorno alla base del Tempio G, che sono ancora sul posto, come dovevano essere, erano pronti per essere innalzati, certo, per essere costruiti. Certo, perché quelle colonne non sono dei monoliti, ma dei dischi sostanzialmente, i rocchi, sì, che sovrapponevano, sì, l'uno all'altro. Sovrapponevano con dei perni di legno che poi con l'umidità e con la pioggia si ingrandivano, si allargavano incastrando i rocchi. Sì. Ecco, però se lei ci porta qua è perché c'è un qualche problema in essere. Ecco, che cosa sta succedendo paradosso a Selinunte? Un paradosso, ecco, sentiamo. Sì, questo enorme, bellissimo parco, peraltro assediato ai suoi limiti anche dalle costruzioni, no? dalle villettopoli, però il parco è integro ed è bellissimo. E lì c'è stata una proposta forse un po' cinematografica, da Colossa all'americano, sull'antichità classica: ritirare in piedi, rimettere in piedi il Tempio G con il sistema della anastilosi, cioè rimettendo tutti i rocchi blocchi, tutti i dischi al loro posto, tutte le trabeazioni, tutti gli architravi, i capitelli, eccetera. Ecco, che ancora come sono sparsi intorno, sì, alla base del tempio. Insomma, di fare come un Lego, avendo i mattoncini, si devono rimontare. Ma tutto sommato, sì, mi sembra che sia già capitato in altre occasioni. Ma sì, perché, sì, proprio qua forse non è il caso di farlo? Ma si facevano queste cose in tempi remoti, ma in effetti questo luogo è rimasto tale appunto dopo la distruzione dei cartaginesi, e anche a causa di un enorme terremoto che fece cadere quello che non era stato appena costruito del Tempio G, un terremoto che avvenne in epoca bizantina. Quindi ormai il Tempio è così più di un millennio, ed è stato immortalato in tutte i dipinti dei viaggiatori, dei gran turisti. Sarebbe un pochino antistorico, veramente una spesa eccessiva ricostruirlo. Ah, ecco. Meglio invece sarebbe andare, ecco, a mantenere questo luogo. Questo luogo, tra l'altro, secondo un provvedimento recente della Regione Siciliana, è un parco archeologico autonomo che può essere gestito anche con una certa libertà appunto amministrativa. La direttrice, molto brava, un'archeologa, Caterina Greco, gli vanno dati i soldi per gestire bene questo parco, per restaurare i monumenti che ci sono, non per innalzare di nuovo con questo effetto da Disneyland un monumento che è stato distrutto più di un millennio fa. Insomma, Presidente, il messaggio di Italia Nostra è chiaro, no? Non mettiamoci a ricostruire. Rispettiamo la storia. Ecco, rispettiamo la storia, soprattutto diamo i fondi, utilizziamo questi fondi, perché il parco continua ad essere così affascinante come lei sì, ce l'ha descritto fino, sì, adesso. Io la ringrazio moltissimo di questo suo intervento e speriamo nelle prossime puntate di averla con noi alla scoperta delle belle cose che ci sono in Italia e anche dei tanti problemi che ci sono per mantenere bella il nostro paese. Grazie, Presidente. Grazie, Marco, e saluto a tutti. Grazie. Ed è davvero tutto per la puntata dell'Altro Pianeta di questa settimana. Grazie a tutti voi per averci seguito. Per scriverci, vi ricordo, l'altropianeta@radio24.it oppure laura.bettini@radio24.it. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.